24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Allora, caro Fantozzi, accetta? Sì! Fantozzi, già qui? Accetto tutto! Ma come? Non ha neanche sentito quello che le ho detto? Accetterei comunque. Io mi arrendo senza condizioni. E allora venga. Così mi riassumete? Certo. Riavrò il mio posto? No. Proprio il suo posto? No. Ma le diamo qualcosa di più. E cioè? E cioè, oltre al nostro perdono, le offriamo anche la gioia purificatrice di meritarselo. Lei ricomincerà da capo, Fantozzi, dal gradino più basso della carriera. Noi la riassumiamo come parafulmine. Fantozzi! Fantozzi! Le auguro buon lavoro, caro ragioniere! E mi raccomando, non sia così triste. Rida, rida! Il lavoro è gioia, il lavoro è allegria. Ecco, bravo, così. E adesso all'opera. Questo era Fantozzi quando c'era il posto fisso. Fantozzi faceva ridere. Adesso sembra una tragica profezia del presente. Raffaele Bonanni, buongiorno, segretario generale della CISL. È questo che vogliono gli svedesi dell'Electrolux? Ma non è chiaro fino in fondo cosa loro vogliono e cosa vogliono fare anche l'autorità. Quello che dico io è che discutere di tutti i problemi che rendono svantaggiati i prodotti costruiti qui è un fatto da realizzare. Senta, ma bisogna fare confusione? No. Ma bisogna tornare a Fantozzi per lavorare in questo mercato globalizzato? No, bisogna cancellare tutte le sfasature di sistema dentro le aziende e fuori dalle aziende. Questo è l'unico modo per rendere competitive le nostre produzioni. Senta, lo diciamo da diverso tempo, sì. Assisteremo continuamente a smantellamenti di posti di lavoro. Ecco, però l'incontro con il governo di ieri e con la società ha prodotto qualcosa o parole come sempre? Ma ci sarà un altro incontro, sì, 17 febbraio, comunque, ma questo comunque va bene, solo che mi preoccupo quando si sostiene da parte delle regioni ci metterò dei soldi e quando da parte dello Stato ci metterò dei soldi. Mi preoccupa moltissimo perché il problema non è dare soldi che al prima acqua manca di nuovo. Il problema vero è intervenire sull'energia, sulle infrastrutture, sulla autorizzazione di ogni cosa che fa l'azienda, sui costi dei servizi comuni e così via. E vedo che la classe dirigente su questo non ci sente. E quindi, ma classe dirigente intende la classe dirigente dell'Electrolux? Oramai gli altri sono abituati, gli stranieri sono abituati a vedere un'Italia che si muove al contrario e quindi hanno poca fiducia rispetto appunto alla concretità delle cose che si fanno. Senta, ecco perché loro stessi magari chiedono qualche soldo e poi si vede, ma così non va bene. Dottor Bonanni, 800-24-00-24 il numero verde, 349-238-6666 l'SMS, ma la Serracchiani ha chiesto le dimissioni del ministro Zanonato, le vuole anche lei queste dimissioni? Devo essere sincero. Deve essere sincero. Non avremo posti di lavoro con le dimissioni o di quello o dell'altro. Avremo posti di lavoro attraverso un impegno nuovo, coraggioso, determinato. Sì, ma il ministro si è comportato in modo corretto, attivo, tempestivo oppure no? Mi dica una cosa precisa. Come gli altri ministri hanno sottovalutato sempre il fatto che essendo noi un paese manufatturiero abbiamo bisogno di situazioni di contesto favorevoli alle produzioni. Quindi lui non si discute da molti anni. Quindi lui si deve dimettere come tutti gli altri, diciamo, non di più e non di meno. Esattamente, non credo che abbia più colpe degli altri. E quindi questo governo, diciamo, a parte una grande vetrina internazionale, di fatto è fermo. Questo governo e i governi locali perché hanno smarrito il senso della loro funzione. La loro funzione è quella di far funzionare bene i territori e di dare apporti notevoli alle produzioni attraverso il funzionamento di tutto ciò che rende la produzione al sicuro nella competitività. Senta, ma i sindacati quanta responsabilità hanno in questo mantenere fermo il modello industriale? Ma per quel che ci riguarda, ogni qualvolta che c'è stato un problema da affrontare, noi ci siamo resi disponibili e abbiamo trovato delle soluzioni. Certo, se uno ti viene a dire metà stipendio, c'è qualche problema, soprattutto quando nessuno mette mano su tutte le altre vicende di spreco e di inefficienza. Senta, l'Electrolux minaccia di abbandonare l'Italia, l'abbiamo capito, o comunque ritornare al modello Fantozzi. La Fiat l'ha già abbandonata. Nuovo marchio, nuova sede locale, nuova sede fiscale, forse nuove chiusure. Sì, no, in Italia lei ci crede al mantenimento dell'occupazione? Ma la Fiat non ha abbandonato nulla. È singolare che i miei colleghi americani urlano contro la Chrysler per aver trasferito tutto in Europa e a Torino. È molto singolare. Io questa discussione qui che sta portando avanti in queste ore non la capisco proprio. Quindi lei dà ragione a Marchionne. Marchionne ha fatto il bene della Fiat, della Chrysler, dell'Italia, degli Stati Uniti, di tutti? Marchionne fa degli investimenti se riesce a spuntarci dei guadagni. Senta, questo ma è chiaro. Mi dica una cosa. Non è un filantropo, ma no, si muove in questo modo. Bisogna vedere se ognuno di noi capisce qual è il gioco. Il gioco è questo, perché gli investimenti non si fanno con decreti, gli investimenti si fanno con investitori stranieri e italiani che ritengono conveniente stare qui. Noi dobbiamo rendere conveniente stare in Italia, azzerando tutte le sfasature. Ecco, ma azzerando le sfasature vuol dire anche cambiare il modello di rapporti sindacali, sicuramente. Per esempio, con Renzi, scusi, abbiamo aumentato gli stipendi, non abbiamo abbassati, abbiamo utilizzato meglio il tempo di lavoro per utilizzare al massimo gli impianti che costano molto. Parliamoci chiaro, Bonanni. Ci sono voti che ci sono delle voci che dicono che nel Job Act, che arriverà tra poco, si prevede l'abolizione della cassa integrazione speciale a favore del salario minimo garantito per favorire le ristrutturazioni delle aziende. Lei è d'accordo su questa linea o no? Mi pare che ci sia qualche confusione. Le casse integrazioni funzionano. Però bloccano anche le ristrutturazioni. Nessuno ha spiegato cosa significa quella proposta, obiettivamente. Sono passati 2 mesi e io, che sono favorevole a trovare soluzioni, non ho capito bene qual è la proposta. Senta, ma intanto i 15 miliardi promessi da Marchionne per gli investimenti in Italia, che fine hanno fatto? Non se ne parla più. Sono stati fatti. 7 sono stati fatti tra Pomigliano, tra Torino, sia a Grugliasco che a Mirafiori, a Val di Sangro, a Melfi. Aspettiamo altri investimenti a Pomigliano e aspettiamo altri investimenti, speriamo lì, abbiamo fatto pressioni ieri, su Cassino. Senta, ma il crollo del 6% del titolo Fiat in borsa ieri cosa significa dopo l'annuncio che ha fatto Marchionne? È un buon segnale? Che non facendo gli dividendi, come si aspettavano gli azionisti, la borsa è andata giù. Quindi non è un segno negativo? No, al contrario, perché l'azienda si presenta come il settimo competitore in un settore molto particolare che è quello dell'auto. Senta, ma senta cosa diceva Renzi di Marchionne. Caro ingegner Marchionne, io sono uno di quelli che ha creduto in lei. Mi sono preso anche un sacco di accuse per aver detto che il suo progetto Fabbrica Italia sarebbe stato un progetto credibile. Sono stato deluso, tradito, come tanti altri, come quelli che hanno votato sì a quel referendum che lei aveva promesso. Oggi le chiedo soltanto di essere coerente con ciò che vuol fare. Lei non è a capo di un'azienda normale, è a capo della Fiat. La Fiat è stata per troppi anni pagata dagli italiani. Quando c'era un credito era per il privato, quando c'era un debito era per il pubblico, con la cassa integrazione e con tutto il resto. Abbia quel surplus di responsabilità e di senso civico per riconoscere che se anche fa una macchina buona ogni tanto, noi non ci offendiamo. Bonanni, lei d'accordo con Renzi? Ma sì o no? Dice anche cose vere, ma dice molte cose che sono così. Occasione per parlare con la gente. Quindi La scelta di Bonanni e di Marchionne è una scelta obbligata per sopravvivere di fronte al mercato globalizzato. Questo dice lei, se ho capito bene. La Fiat era morta e è stata resuscitata. Oggi addirittura un competitore importante che fa preoccupare anche i tedeschi, che sono i costruttori più agguerriti, insieme ai coreani. Questa è la realtà. E noi dobbiamo confrontarci con questa realtà. Il resto è chiacchiera, è assolutamente discussioni, tant'è vero in Italia non si va avanti da molto tempo perché ognuno che si alza la mattina parla, dice la sua, al di fuori della realtà. Senta, ma siamo in un mondo globalizzato, certo, dove altri paesi stanno camminando moltissimo. O gli italiani si svegliano e anche gli europei, o altrimenti andremo indietro. Mario, sai che deve fare una domanda? Buongiorno, Bonanni. Le dimensioni ovviamente sono diverse, il campo tecnologico pure, però esiste anche per Electrolux in Italia una strada maestra come quella seguita dalla Fiat per lei? Questo a me interessa fare, perché se hanno intenzione davvero di fare dei prodotti competitivi, azzerare i costi utilizzando al massimo gli impianti, azzerare i costi attraverso l'efficientizzazione di tutti i fattori di sviluppo territoriali. Dicevo poc'anzi, è inutile che i governatori e così via, lo Stato, si presentano là, ho dato dei soldi prima, li darò ancora. D'accordo. Quello è il guaio, dare dei soldi alle imprese, non significa che se li prendano non e sono poi investimenti. Alla prima acqua si bagnano. Il problema vero è fare qualcosa che alleggerisce i costi di territorio per le imprese. Sono Buttafuoco, Bonanni, buongiorno. Buongiorno. Ho seguito appunto questa sua affermazione, mi resta in testa, nel territorio, lavorare nel territorio, dare i soldi alle imprese può essere anche un danno, e sappiamo che la storia recente d'Italia, che è legata alla Fiat, è stata una storia di finanziamenti, di contributi, di aiuti, che sono stati di fatto inutili. Però per chiarezza io vorrei capire da lei questo. Dice che la scelta di Marchionne è una scelta obbligata, ma a questo punto vale anche per Electrolux, sì o no? Sì, cioè, o no? Lì la questione è molto semplice, bisogna vedere nel mercato i prodotti che facciamo, se reggono o no. Questo è il punto. Sì. Allora, non è un problema solamente delle dirigenze, delle aziende, questo lo può fare chiunque e sia dotato di un buon senso. Insomma, nei paesi normali i miei colleghi tedeschi lo fanno tutti i giorni, tant'è vero intervengono su questo con relazioni industriali molto attagliate a situazioni di modifica, per Bonanni, esempio, Bonanni, delle inefficienze di sistema. Bonanni, ma la cassa integrazione non alimenta il lavoro nero? Ci chiede Oscar. Come il reddito minimo. Noi da diverso tempo chiediamo che la cassa integrazione bisogna mantenerla, però obbligando le persone a fare formazione in modo tale che quel lasso di tempo serva a ricostruirsi una professionalità. Lo abbiamo chiesto a Fortino, una professionalità, per il, una professionalità per il mercato, non per quell'azienda. Silvano da Pesaro. Bonanni. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, dica. Io ho ascoltato. Allora, io volevo dire questo. Dica. Molte colpe su queste situazioni ce l'ha il sindacato. Perché? Io faccio l'autotrasportatore e giro tantissime fabbriche in tutta Italia. Gli operai sono diventati padrone delle fabbriche con l'appoggio del sindacato. E allora adesso non si possono lamentare se quello va via, quell'altro va via e quell'altro va via. Voi andate a vedere cosa fanno le agenzie interinali con gli operai, gestite dal sindacato. Voi fate una trasmissione su queste cose. Va bene. A Roma c'è persone che lavorano per 4,50 euro. Allora non hanno né tredicesimo né assistenza dell'INPS, non hanno niente. E il sindacato è colpa di sto sistema. È inutile che Bonanni lui dice e parla. Il sindacato ha colpa di questo sistema. Grazie. Sto sentendo, sì, che il sindacato comanda le aziende. Forse io abito in un altro paese, non lo so. Senta, un'ultima domanda, Bonanni. Ma se l'Europa non diventa l'Europa dei diritti, ma resta solo l'Europa dell'euro, non sarà mai nulla nei confronti del mercato globalizzato e delle sue esigenze? Certo, perché non riesce a ottenere quelle condizioni di scala necessarie per tenersi in competizione, non riesce ad avere una direzione politica in grado di governare i processi economici rispetto agli altri. Finché dobbiamo non chiudere l'Europa politica, non ce la faremo. Va bene, grazie Bonanni. Grazie, buongiorno.

che c'è un comandamento unico, poeticamente abita l'uomo, e perché fortunatamente accanto a quella che è la satrapia dell'oro c'è sempre trionfante il sangue. Mi sento avvolto nel miele, basta. Stai attento che ho detto sangue. Sangue, l'ha detta precisa, guarda. Che cosa bolle nella pentola di Mario Secchi? Vediamo che sangue. Oi, oi, oi. Vabbè, in onore di Buttafuoco, che sono felice di avere qui davanti a me dopo un po' di assenza, sentiamo qui. C'è nessuno. Ma che fai? È la cassaforte. Eh? Usare la saponetta è pericoloso. Io da domani mi lavo a secco. Parlo della saponetta esplosiva, farebbe troppo rumore. E allora? E allora bisogna localizzare i chiavistelli cilindrici, inserire delle piccole dose di nitroglicerina e farla saltare. Procedi. Vabbè, come svaligiamo la Banca d'Italia, Franco e Ciccio. Mi sembra che si stanno impegnando. Sì, a svaligiare anche il buonsenso. Facciamo un po' di chiarezza su che cosa sta succedendo sul capitale di Banca Italia. Sì. Non è niente di straordinario in realtà, è una rivalutazione delle quote degli azionisti. Chi sono gli azionisti? Gli azionisti sono le stesse banche. Le stesse banche private. Che ne so, i primi azionisti sono Intesa San Paolo, Unicredit, poi Generali, la Cassa di Risparmio di Bologna, l'Inps e via scendendo. E quindi niente, vanno rivalutate, perché è dal 36 che questa operazione andava fatta. In più va fatta perché ci sono regole europee nuove e necessità nuove regolatorie. Ma al contribuente costa qualcosa o non costa nulla? Zero. Bene. Quindi insomma, è una polemica fondata sostanzialmente sul nulla. Sul nulla, o comunque su un pregiudizio ideologico, diciamo così. Si può discutere se la rivalutazione può essere conveniente o meno per gli azionisti, ma una cosa è certa, andava fatta, quindi c'è poco da dibattere su questo. Segnalo, a proposito di banche, che nell'economia mondiale le cose continuano a muoversi, mentre nel Parlamento italiano amano scazzottarsi amabilmente. E la Fed ha tagliato di altri 10 miliardi il suo piano di acquisto di bond. I mercati in Asia non l'hanno presa benissimo, però vediamo, non è detto che sia una cosa grave. Vediamo invece cosa succede in Europa oggi e cosa succede negli Stati Uniti tra qualche ora, quando aprirà Wall Street. In Turchia Erdogan, come avevamo preannunciato, ha dei problemi, perché la banca centrale ha fatto salire i tassi a livelli record per cercare di evitare il crollo della lira turca. E attenzione, quindi vediamo che cosa succede su un mercato emergente come la Turchia, che è molto importante, e attenzione a vedere che cosa succede sul gigante cinese, perché l'indice di gennaio di fiducia e sulla produzione manifatturiera rilevato dalla Hong Kong Shanghai Bank è da un rallentamento. Guarda, è difficile tenere conto di tutte queste attenzioni che dobbiamo avere. Io preferisco un salamino. Preferisco un salamino di Buttafuoco. I salamini sono ancora una volta dedicati a quel che accade in casa. In casa, come si potrebbe definire? Perché è una cosa confusa, insomma, dov'è? Palazzo Grazioli, Arcore, insomma. Palazzo Grazioli, una delle case. In una delle case Berlusconi. Ne cercano un'altra. Dove spadroneggia Toti, Giovanni Toti, ex direttore di Studio Aperto, di TG4, adesso... Spadroneggia, appena cominciato. No, spadroneggia, sono tutti preoccupati. Ma ha detto che non rottama nessuno. E non rottama nessuno, ma intanto... Non farà Renzi. A proposito di case, si è preso tutte le case e di casa in casa è andato nell'altra casa, cioè ha avuto il suo battesimo a Porto a Porta. E più segnale di quello non ne so trovare. E in tutto questo, però, voi maliziosi avete dimenticato che non solo piange Alfano per i fatti suoi, che c'ha lacrime antiche, non solo piange Fitto, che lì è disperato nelle sue Puglie, piange perfino la pitonessa, ma tutti si sono dimenticati chi è il vero padrone di tutte queste case. Non chi? È più il Cavaliere, non è più neppure la Pascale, che pure amministra le donne in Parlamento, ma lui, attraverso la voce di Nicola Arigliano, lo riconoscerete. Quel motivetto che mi piace tanto e che fa tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Vabbè, è Dudu il vero padrone. Come si chiama, non ne so neppure il nome, ma so che fa du du du du du du du du. Dai Mario, dacci un po' d'angoscia. Va ancora. Bene, no, che angoscia, andiamo sereni. Dopo il duduismo, nuova corrente filosofica politica, io torno a un po' di cose serie, vai. Allora, Rino Gaetano era una canzone Spendi, Spandi e Fendi, molto bella, parla dell'energia, la gasolina la chiama lui, e noi ci torniamo perché il rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia dice che l'Europa avrà, caro Giovanni, stiamo a parlare di cose appunto fondamentali, seri problemi di crescita per i prossimi 20 anni se non risolve il tema delle risorse e dei prezzi dell'energia. Il gas in Europa costa il triplo rispetto agli Stati Uniti. Quindi secondo voi quindi un'azienda o Putin ce lo regalerà o non abbiamo speranza? No, dobbiamo cambiare nel nostro modo di approvvigionarci. Dobbiamo pensare che le energie alternative sono importanti, è giusto fare ricerca, ma non contribuiscono in maniera certo determinante ad abbassare la nostra bolletta, anzi la alzano perché hanno gli incentivi. Dobbiamo pensare che la ricerca con le shale gas è importante. Dobbiamo guardare cosa stanno facendo gli altri paesi. Gli Stati Uniti hanno raggiunto un'autonomia energetica. Praticamente autonomia. Sì. Dall'anno prossimo. È una cosa enorme. Autonomi. È una cosa enorme. Sempre all'America e alla Cina, guarda che succede. Hai visto? Oh, Minoli fa la testa, eh? Mi piaceva Blondie, mi sa. Vabbè, colmi perché? Perché Google ha venduto Motorola ai cinesi di Lenovo. È importante? Sì. Non tanto per l'importo della cessione, ma perché segna il fatto che Motorola esce dalla galassia di Google, perché Google non sa fare quel mestiere, cioè, certo, non deve fare i telefonini, punto. Ognuno deve fare il suo. Ognuno deve fare il suo, quindi è come dire, dal punto di vista industriale, dice che i grandi giganti che mettono insieme troppe cose, alla fine non è che vadano benissimo, e bisogna tenerne conto. Si cambia? Sì, si cambia. Wind of Change, stupenda, Fleetwood Mac, per dire che cosa? Che l'American Dream è un po' meno dream, perché gli americani, molto meno dream, secondo uno studio di Berkeley... Ma secondo te, America T, che sogno fanno? Sempre American Dream abbiamo fanno. Sempre tutta sta America, un poco di cani cattivi. Ma voi siete i più americani di tutti, siete tra i colonizzatori nuovi dell'America. Si viaggia meno in America, ci si sposta meno, è un problema. Si stanno placando. Non lo sappiamo, però l'America va. Il discorso sullo Stato dell'Unione di Obama era molto interessante, in realtà. Viva la pizza italiana. Viva la pizza e viva il cambiamento, quindi Winds of Change ancora. (800) 24 00 24 349 238 6666, l'SMS. Dopo la viabilità parleremo di dover al canone ieri sera. Se avete qualcosa da dire, chiamateci. Mix 24. Siamo tornati in diretta. 800 24 00 24, SMS 349 238 6666. Professor Simonelli, buongiorno. Allora parliamo del canone, che sembra una mia fissa, ma è una tassa che devono pagare tutti gli italiani e al quale pagamento bisogna rendere conto. Per questo ne parliamo. Professore, dov'era il canone ieri sera? Ma era soprattutto su Sky Cinema, perché Sky Cinema ha fatto un'operazione singolare, diciamo che ha prolungato la giornata della memoria per tutta la settimana, per cui su addirittura tre dei canali di Sky Cinema ieri sera in prima serata erano in onda film che ricordavano l'Olocausto. C'era Il bambino col pigiama a righe, che è un film che dagli anni scorsi, insomma, ha circolato molto proprio in occasione della giornata della memoria, ma soprattutto c'era in prima visione, televisiva In Darkness, un film di Agnieszka Holland, una regista polacca. E insomma, l'interesse è duplice per questo film, perché da una parte è un film in prima visione, come dicevo, che ha un fortissimo contenuto civile. Vi riassumo brevemente il contenuto: è la storia che si svolge a Leopoli, occupata dai nazisti, in cui un cittadino polacco di Leopoli nasconde alcuni ebrei nella rete fognaria, e nel buio, come titola il film, ed è una storia molto cruda, terribile, con un lieto fine, però insomma, due ore abbondanti di ottimo cinema, di cinema che ha un forte contenuto storico, ma anche delle scelte ovviamente stilistiche, di luce, in questa anche gravità della situazione. Poi però c'è un altro aspetto: questo film l'anno scorso era nella famosa cinquina dell'Oscar per il miglior film straniero. E allora c'è anche un altro elemento di attualità: siccome quest'anno in questa cinquina c'è un film italiano, no, di cui molto si è parlato, La grande bellezza, mi sembra interessante per una rete di cinema andare anche a rivedere quali, certo, sono stati. Professore, ci abbiamo Luigi da Vicenza per una domanda. Luigi, buongiorno. Buongiorno, ecco, spero di riuscire a dire, perché sono un po' emozionato. Vabbè, non si preoccupi. Allora, io ho pagato il canone giusto una settimana fa. Sì. E, come sempre, io lo pago perché la Rai la guardo, però mi dà fastidio sentire che ci sia molta gente che non lo paga. Certo, è quasi il 30% perché, di evasione. Come fa la Rai a risalire alla gente che ha la TV oppure no? Questo è un problema, grazie, è un problema molto serio, è il problema appunto di come contrastare l'evasione. Ci sono molte ipotesi sul tappeto, di metterlo nella bolletta della luce, eccetera, perché se no è difficile recuperare il canone. Professore? Ecco, io non so come recuperare il canone, credo che una delle ipotesi di legarlo alla bolletta della luce è una delle ipotesi, potrebbe, sì, essere sensato. Allora, concludo il discorso sul cinema, dicevo... Poi bisogna meritarselo. Bisogna meritarselo. Ecco, per esempio, ieri sera se l'hai meritato Sky. No. Perché, insomma, ma il canone lo pagano alla Rai, non a Sky. Sì. Ecco, allora parliamo di Rai, perché ieri sera c'era qualcosa di interessante su Rai Movie. Sì. Continuo a parlare di cinema. Su Rai Movie c'è un talk dedicato al cinema che si chiama Cine Talk. E è singolare questa cosa, perché insomma da tempo i programmi sul cinema sono programmi difficili da fare, i programmi che parlano di cinema. Finalmente da qualche tempo c'è questo coraggioso esperimento dove c'è mezzo canone, via, perché l'intenzione è ottima. Sentiamo, scusi professore, sentiamo Roberto da Milano che parla del canone anche lui. Roberto? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Fiero di non pagare il canone perché ho buttato l'apparecchio televisivo. Ah, vabbè, allora la ringrazio. Purtroppo il canone. Perché l'ha buttato? Dunque, il canone era in... No, perché ha buttato l'apparecchio televisivo? Beh, per due motivi. Prima di tutto perché era logico e non supportava più il discorso del digitale terrestre. Secondariamente il canone era intestato a papà, che purtroppo è venuto a mancare. Ho mandato la disdetta allegando il certificato di morte. Poi mi sono arrivate due mail pseudo mafiose. Vabbè, rinnovare, insomma, non la vuole più. No... Sì, non le piace la televisione, sostanzialmente. Per un discorso di contenuti, perché non le piace non più. Non è meritevole dei miei Va soldi. Va bene, ok, d'accordo. Grazie. Professore, ha visto? Sognano meno col canone. È un problema. Tanto uno di questi giorni avevo sentito un intervento di un ascoltatore che mi aveva colpito, quello che diceva che la decadenza dell'Italia è cominciata da quando è cominciata l'egemonia del sistema televisivo nell'ambito dei media. Sì, avevano scritto proprio a noi, proprio su questo. È vero, ma aveva colpito molto. Professore, appuntamento a domani, e intanto noi sentiamo il nostro amico che abbiamo lasciato in Australia, partito da Torino sulle ali della protesta dei forconi. Sentiamo come sta andando la sua avventura, come va avanti. Allora, venerdì qua è iniziata 4 giorni di festa, perché domenica si festeggia l'Australian Day, dove praticamente ho lavorato più o meno 10 ore al giorno. Quindi hai guadagnato tanti soldi. Sì, ho guadagnato un po' di soldi, con 4 giorni lavorativi, facendo 10 ore al giorno. Quanto hai guadagnato? Contando le tasse, $600-700. Accidenti, facendo il lavapiatti. Sempre al stesso posto facevo il lavapiatti, finivo il turno e iniziavo a fare l'aiuto barman. Senti, ma il visto come funziona? Tu ti sei messo a lavorare, non c'è bisogno del visto? Cioè, un giovane che vuole andare in Australia va e si mette a lavorare? No, no, c'è bisogno del visto. Il visto lo si fa prima di partire, ti arriva a casa, lo paghi sui $300 australiani e poi qua, quando sei qui, se vuoi lavorare tutto in regola, quindi col contratto e tutto, te lo chiedono, ti chiedono il numero del visa. Io il primo giorno che ho iniziato a lavorare mi hanno fatto subito il contratto. Ma questa Australia ti sta appassionando? È veramente molto multiculturale, però la sensazione che ho io è che più o meno si formano i gruppetti, cioè gli italiani stanno con gli italiani, gli arabi con gli arabi, gli asiatici con gli asiatici. Si vive tutti tranquillamente, tutti serenamente, sì, sì. Però non vedo questa fusione. Allora tu hai trovato il tuo gruppo di italiani? Io sì, ho trovato il mio gruppo di italiani, ma anche il mio gruppo di australiani comunque. Ah. Cioè ho mi bilancio da tutte e due le parti. E il papà e la mamma li senti? Ah, non lo so, penso stiano bene. Addirittura pensi, non li senti più? Sento ogni tanto mia mamma su WhatsApp. Vabbè. Alla prossima volta ci racconti qualcosa di più. Ma io comunque posso dirvi che ho già fatto due prove in altri due ristoranti. La cosa divertente è che in uno ho fatto il pizzaiolo, la prova, e quello che mi insegnava era un indiano. Cioè era un indiano che ti insegnava a fare la pizza? Esatto, e lo chef era nepalese. E l'italiano faceva il lavapiatti? Beh, dipende, l'italiano fa il lavapiatti o fa il barista o fa il pizzaiolo. Vabbè, alla prossima volta, ciao. Ciao. Ecco, oggi per la storia, cura come sempre di Marina Milone, raccontiamo uno dei sequestri più lunghi e tormentati della storia dei rapimenti in Italia, quello di Cesare Casella.